Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, oggi parliamo dei nostri ragazzi, i ragazzi che vanno a scuola, che frequentano gli istituti di istruzione superiore, magari di malavoglia, magari indifferenti a quanto gli insegnanti si sforzano di insegnare loro. Il rapporto con gli insegnanti è sempre un rapporto difficile, spesso conflittuale, si parla tanto di quello che è il ruolo degli insegnanti, della responsabilità delle famiglie nei confronti appunto sia degli insegnanti che degli studenti, della motivazione dei ragazzi. E tutti questi temi troviamo affrontati in un libro che è un'interessante testimonianza, perché è un libro epistolare, sono delle lettere che si scrivono due insegnanti, Giuseppe Bagni, che insegna chimica in un istituto professionale di Firenze, e Rosalba Conserva, che invece insegna italiano in un istituto tecnico di Roma. All'inizio dell'anno scolastico i due docenti, i due colleghi cominciano appunto a scriversi, a scambiare le proprie esperienze, e ne nasce uno spaccato non soltanto della scuola italiana, ma soprattutto del modo con cui molti insegnanti affrontano il loro lavoro quotidiano, il loro faticoso lavoro quotidiano, ed emerge quindi da questo scambio di corrispondenza anche la passione, l'interesse, l'attenzione che i due docenti dedicano alla loro importante professione. Il loro libro si intitola Insegnare a chi non vuole imparare, è pubblicato da L'Asino d'Oro Edizioni, 206 pagine, 17 euro. E appunto, come dicevo, queste lettere sono l'occasione per discutere tra i due sulla condizione scolastica nel nostro paese, su come si possono modificare le modalità di apprendimento, sulle politiche per la scuola, sulla didattica quotidiana. I due insegnanti sono consapevoli delle proprie responsabilità, non sono rassegnati, appassionati, come dicevo prima, e cercano di capire come affrontare dei ragazzi spesso sfuggenti, talora addirittura recalcitranti. E la loro avventura epistolare quindi ci offre un quadro efficace appunto della scuola italiana, di cui adesso parliamo con uno dei due autori. Buonasera a Giuseppe Bagni. Buonasera. Giuseppe Bagni, nella prima lettera che lei scrive alla sua collega, lei insiste su un fatto, il fatto cioè che bisogna convincere i ragazzi che hanno un tesoro dentro di loro e che devono trovarlo, devono essere capaci di scoprirlo. Che cosa intende con questa espressione? Intendo che oggi con questa nuova generazione bisogna avere il coraggio di scommettere sulla loro voglia di apprendere, sul desiderio, che magari noi non lo vediamo con grande chiarezza, ma il motore dell'apprendimento è dentro di loro, a noi sta di accendere la scintilla, ma la messa in moto spetta a loro. Quindi credo che bisogni in qualche maniera convincere i ragazzi che il tempo della scuola è un tempo di scoperta di sé, di scoperta del mondo, o meglio, di scoperta di sé attraverso la scoperta del mondo e degli altri. Insomma, è un contesto importante e non è un'attesa di un lavoro, non è un tempo finalizzato a una formazione è proprio la loro formazione. Vengono, specialmente nel settore nostro, dei 14 anni, quindi nella scuola diciamo superiore, vengono con già la sensazione di essere in attesa della libera uscita, in attesa di finire questo periodo, no? Come se ormai avessero capito cosa li attende. Invece dentro la scuola possono scoprire se stessi e quindi sorprenderli. Io ricordo molti alunni convinti di non sapere imparare, convinti di non essere fatti per la scuola, che accompagnati all'apprendimento, no? Per piccole tappe, facendogli vedere quante cose erano in grado da soli di scoprire, questo diventava un meccanismo bello per loro, quindi desiderabile stare a scuola, come stare in un contesto desiderabile. Se non scatta questa molla, a scuola rimangono quelli che andrebbero anche senza obbligo di istruzione. Per questo la sua collega dice che insegnare, anzi spiegare, lei dice, è un'arte. Lei condivide questa valutazione? Spiegare è un'arte, certamente, perché c'è dell'artigianato, c'è del personale da investire, c'è una originalità da mettere in campo. È uno spiegare che deve nascere da un nodo che non è il nostro, è un nodo, è un problema da risolvere che deve essere loro. Cioè, loro sono portatori di domande. Se loro sono portatori di domande, l'arte dell'insegnante è quello di dare le risposte più belle, più esaurienti, più stimolanti, ma non possiamo dimenticare che una prima fase è introdurre le domande dentro di loro. E in vari punti del libro voi discutete sul tema della parola, la parola scritta, il tipo di linguaggio che usano. Rosalba insiste sul lato tecnico della scrittura, lei a un certo punto sottolinea la dissociazione che esiste tra la lingua insegnata e la lingua madre dei ragazzi. Quanto è ampia questa dissociazione? È ampia, è tanto ampia perché i ragazzi cambiano in continuazione. Cioè noi, secondo me, la vera difficoltà dell'insegnare oggi a scuola è che stiamo insegnando a dei ragazzi che non assomigliano in niente o in poco rispetto a quello che noi siamo stati da studenti. Cioè insegniamo a degli studenti che non ci assomigliano più e hanno un vocabolario diverso, hanno non soltanto un vocabolario lessicale, hanno un modo di dialogare, un modo di comunicare che è molto diverso dal nostro. E purtroppo la scuola rimane ferma sui propri vocabolari, sui propri linguaggi, sui propri scamotaggi per destare l'interesse. No, noi disegniamo un problema alla lavagna e pensiamo che il problema, siccome lo disegniamo, lo illustriamo alla lavagna, diventi un problema sentito dai ragazzi. No. Abbiamo bisogno di intercettare questo loro modo di parlare, questo loro modo di capire, questo modo di interessarsi al mondo. È un vocabolario che non è una lingua madre che è molto più condivisa con gli altri, è molto più diffusa, è molto più immaginifica, legata alle immagini, alle icone, più che semplicemente allo scritto, al simbolico. Abbiamo bisogno di confrontarci con questa realtà. Credo che sia necessario. Rosalba Conserva a un certo punto denuncia il fatto che, la cito, che soprattutto nel biennio si dimostra il lato, scrive, insensato e necessariamente coercitivo dell'istruzione. Lei condivide questa valutazione? Si può individuare un'alternativa a questo modello insensato e coercitivo? Io appunto non la condivido, ma molte delle nostre lettere vengono da questa differenza, no? Rosalba insegna in una struttura classica, in una classe, in un'aula. Io insegno in un laboratorio, non ho l'aula, non ho la cattedra, non ho la lavagna, quindi io mi devo per forza muovere fra gli alunni che sono in un laboratorio di chimica, quindi sono immerso insieme a loro in un contesto dove le differenze fra me e loro nascono soltanto dal contributo che io do a loro, perché anche come immagine loro sono vestiti come me, no? Abbiamo una divisa, abbiamo un camice, gli occhiali del laboratorio, quindi non si distingue chi è l'insegnante e chi è lo studente, si distingue soltanto quando si riesce a dar senso al problema che loro non sanno risolvere. Una cosa che spetta a noi oggi, forse non ci spettava anni fa, è che al senso del dovere che chiediamo agli studenti corrisponde il nostro dovere di dar senso a quello che fanno a scuola, in modo tale che quello che facciamo a scuola diventi sensato anche per loro. Se diventa sensato, abbiamo il dovere di chiedere la fatica, lo studio, l'impegno, la serietà, il comportamento, ma a partire da un dar senso al risultato per loro di quello che facciamo. In una lettera di novembre lei scrive a Rosalba dicendo che i suoi ragazzi sembrano amorfi, a un certo punto li definisce addirittura svogliati e cialtroni, ma soprattutto sono amorfi nel senso che sono lontani da qualunque interesse per la politica, per i dibattiti, per i movimenti per la pace, leggo dal suo libro. Ecco, questa generazione si può riavvicinare all'interesse per la cosa pubblica e anche alla politica? Bisogna assolutamente, perché anche questo è profondamente diverso dalle nostre generazioni, in cui dentro la scuola abbiamo incontrato l'impegno sociale, l'impegno politico, ciascuno nello schieramento riteneva, ma noi sentivamo il bisogno di collocarci nel mondo, anche nel mondo sociale e politico. I ragazzi oggi si rifugiano da questo mondo, cioè si allontanano, è tutta roba che riguarda la televisione, roba che non mi appartiene. Non è che non hanno questi valori, cioè loro pensano con i nostri stessi valori, ma hanno un senso del possibile in cui non penserà più niente del pensabile. La sfera del pensabile non ha più scambio con la sfera del possibile, per cui i loro desideri restano sogni, ma nella realtà bisogna comportarsi in questa maniera, bisogna accettare queste regole, quindi c'è un disinteresse nel cambiare questo modo di esistere, e lo vediamo anche nella scuola, no? Assolutamente, è proprio un contesto in cui certe conquiste degli studenti sono diventate delle routine, svuotate di significato, però non lo possiamo, non sta a noi adulti travestirci da studenti e assumere il loro ruolo o scendere ad un dialogo, diciamo, identico a loro. La differenza deve rimanere. Si tratta semplicemente di stimolare queste grandi domande e di dare la fiducia che quello che pensano può diventare anche parte del loro vero futuro, se riescono a non pensare in piccolo, ad agire nel concreto, ma a pensare in grande. È la scommessa, è questa, perché non possiamo fare a meno di una generazione che produca impegno sociale e impegno politico. Lo sconteremo nel futuro, altrimenti. Grazie a Giuseppe Bagni, autore con Rosalba Conserva di Insegnare a chi non vuole imparare. Buona serata. Grazie a voi, arrivederci. E un romanzo anche scolastico è quello di Alessandro Mari, L'anonima fine di Radice Quadrata, pubblicato da Bompiani, 318 pagine, 18 euro. Mari è uno dei più interessanti tra i giovani scrittori italiani, ne abbiamo parlato qui quando ha scritto Troppa umana speranza e poi Per gli alberi hanno il tuo nome. Questo è un libro pensato per i ragazzi, d'ambientazione scolastico, ispirato a un libro importante ma dimenticato, Cuore di De Amicis, che diventa l'oggetto di una singolare esercitazione proposta da un insegnante, l'orrido sortino, come viene definito nel libro, che costringe anche i ragazzi a lavorare in coppia. Una delle coppie è formata dalla protagonista, una ragazza insultata con l'epiteto Radice Quadrata senza numero, che sarà poi il soprannome che la ragazza stessa darà al ragazzo che l'aveva insultata in quel modo. E si instaura fra i due un rapporto quasi morboso, perché la prima, Sofia, vuole capire di più di questo ragazzo che appare sempre sfuggente, che ha un lato misterioso, che appunto Sofia vuole decifrare, e la scoperta sarà facilitata da un dramma finale. Quindi troviamo qui nel libro di Mario un ritratto efficace di una generazione circondata dal grigio e dalla pioggia che faranno maturare la vita. Ultimi arrivi. Parliamo innanzitutto del libro di un personaggio molto noto che incontriamo spesso nei giornali, nelle trasmissioni televisive, Raffaele Cantone, che ha scritto con Gianluca Di Feo Il male italiano, liberarsi dalla corruzione per cambiare il paese, pubblicato da Rizzoli, 198 pagine, 17,50 euro. Lui è il presidente dell'autorità anticorruzione e vigila anche su Expo 2015. E qui spiega le sue idee collocandole all'interno della carriera in magistratura, che lo ha visto occupare posizioni importanti come quella di PM alla direzione distrettuale antimafia. Cantone ha le idee chiare, scrive che la corruzione non è un peccato veniale ma è il peccato capitale della democrazia, perché sgretola le basi della convivenza, corrode i fondamenti della vita democratica senza che i protagonisti di questo crimine si sentano responsabili. E qui spiega come affrontare questa piaga. Poi vi segnalo il libro di un altro autore molto noto, Aldo Busi, uno dei maggiori scrittori dell'Italia contemporanea, che ha scritto Vacche amiche, un'autobiografia non autorizzata, pubblicata da Marsilio, 178 pagine, 15 euro, sottotitolo ironico, introduce un esplosivo racconto di se stesso, che è un'occasione per mettere alla prova una lingua pirotecnica e confermare l'importanza e l'unicità dello scrittore nella letteratura italiana contemporanea. E infine vi segnalo di un altro nome molto noto, un giornalista, Matteo Collura, La Badante, è pubblicato da Longanesi, 208 pagine, 17,60 euro. Questo libro è un romanzo che affronta la condizione degli ultraottantenni. Di questa condizione diventa l'occasione per un racconto, per una narrazione basata sul rapporto tra un vecchio professore e la romena che se ne prende cura. Il professore non è solo, intorno a lui volteggiano una sorella, una cognata, un figlio, che animeranno sorprese e colpi di scena, che alla fine costringeranno il protagonista, cioè il vecchio professore, a rileggere la propria vita. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carrubba. Sabato prossimo celebreremo il 70° anniversario della Liberazione. Qua ricordiamo quella ricorrenza e quella data con le parole di un importante antifascista, un antifascista milanese, Tommaso Gallarati Scotti. "26 aprile 1945. Grande giornata. Giunge la notizia della liberazione di Milano, Torino, Verona. I tedeschi sono in rotta. Quando Mascia me l'annunzia, la commozione è più forte della gioia. Viva l'Italia! Il mio cuore è con tutti gli amici combattenti. È un'ora storica memorabile. Viva l'Italia! Italia liberata. 27 aprile 1945, notizia dell'arresto di Mussolini, Farinacci, Pavolini e Graziani sul lago di Como. Impressione profonda. Sono 25 anni della mia vita a cui si intreccia quell'uomo nefasto. Nessun senso vendicativo, nemmeno contro Farinacci, di cui ho difeso il figlio, console alle mie dipendenze a Malaga, ma una melanconia profonda, pensando a questa terribile cosa che è il dramma storico del bene e del male e il potere malefico di alcuni uomini. Parlo con Lodovico al telefono. Egli si prepara a passare in Lombardia. È giusto che i giovani partecipino ai momenti solenni della storia del loro paese. L'Italia che non ha paura. Le parole sono tratte dal diario di Gallarate Scotti, che in quel momento, il 25 aprile del 1945, svolgeva le funzioni di ambasciatore in Spagna, dove l'aveva inviato il governo Bonomi. E il diario di Gallarate Scotti, adesso pubblicato da Franco Angeli, si intitola Memorie riservate di un ambasciatore 1943-1951, 236 pagine, 26 euro, è curato da Alfredo Canavero, che è docente dell'Università di Milano, il quale mette bene in luce l'importanza e il rilievo di questa figura che appartenne a una delle più nobili famiglie milanesi, esponente importante del cattolicesimo e dell'antifascismo lombardo. Dopo Madrid, Gallarate Scotti fu il primo ambasciatore post bellico dell'Italia a Londra e lasciò quella missione per polemiche, per una divergenza con il governo De Gasperi sulla questione di Trieste. Avrebbe poi ripreso a Milano la sua carriera di scrittore, di letterato, e qui in questo diario spiega appunto le ragioni anche della rottura con De Gasperi. Su quel drammatico periodo, quello della liberazione, e sulle sue premesse, vi segnalo tre libri di storia. Il primo è di uno storico francese, esperto, grande esperto di cose italiane, si chiama Pierre Milza, si intitola Hitler e Mussolini, tutti i segreti di una tragica amicizia, pubblicato da Longanesi, 206 pagine, 22 euro, ed è tradotto da Giuseppe Maugeri. Questo è un libro insolito perché è scandito dalla ricostruzione da fonti ufficiali e fonti secondarie dei 18 incontri che Mussolini e Hitler ebbero dal giugno del 1934 al luglio del 1944. Per ogni capitolo troviamo una ricostruzione di quell'incontro e una cronaca delle visite che i due si fecero. Un altro rapporto di Mussolini, questo con Churchill, è ricostruito da Mimmo Franzinelli nel libro L'arma segreta del Duce. La vera storia del carteggio Churchill-Mussolini, pubblicato da Rizzoli, 444 pagine, 23 euro. Questo libro invece affronta una questione annosa, anzi, come la definisce l'autore, una storia infinita, quella del presunto carteggio tra il leader britannico Churchill e Mussolini, una storia alimentata per molti anni sia per ottenere cospicui vantaggi finanziari da chi cercava di vendere delle carte senza valore, sia per riabilitare da parte di alcuni la figura di Mussolini e squalificare quella di Churchill, una questione che si trascinò per anni con editori come Mondadori e Rizzoli che caddero nelle trappole di alcuni falsari pagando sontuosissimi anticipi per carte che poi si rivelarono del tutto false. E nel libro troviamo la storia di questa vicenda seguita da un'appendice documentaria in cui tra l'altro possiamo leggere l'unica lettera che Churchill scrisse a Mussolini, nella quale lo invitava a un patto di non aggressione nel 1940. E la vicenda inizia proprio 70 anni fa, alla liberazione, in seguito alla missione affidata a un giovane sottotenente di depositare a Ginevra una borsa. Proprio da quella vicenda sarebbe nata la leggenda del carteggio, con tutte le speculazioni economiche, giornalistiche e politiche che hanno sollevato un polverone che ora Franzinelli contribuisce in modo convincente a diradare. Poi vi segnalo di Gianni Rocca, che fu condirettore di Repubblica, I disperati, la tragedia dell'aeronautica italiana nella seconda guerra mondiale, pubblicato da Castelvecchi, 286 pagine, 19,50 euro, che racconta la storia spesso gloriosa dell'aeronautica militare fino alle giornate drammatiche della dissoluzione dello Stato in quei mesi. Sulla resistenza vi segnalo anche la intensa testimonianza di un grande poeta, Giacomo Noventa, Tre parole sulla resistenza, pubblicato da Castelvecchi, 70 pagine, 9 euro, in cui troviamo tre brevi scritti del 1947, 55 e 60, nei quali Noventa descrive la resistenza come una novità assoluta, lo cito, l'inizio, quantomeno il presagio di un rinnovamento profondo del pensiero dei costumi e non solo del pensiero dei costumi politici del paese. Un altro drammatico episodio ricorderemo nei giorni prossimi, il 24 aprile, ricorderemo il Metz-Yeghern, ossia il centenario dell'olocausto del popolo armeno, che è stato ricordato nei giorni scorsi anche dal Papa. Papa Francesco ha parlato di Mysterium Iniquitatis. In quell'occasione furono trucidati oltre 1,5 milioni di cristiani appartenenti appunto alla confessione armena, e la loro vicenda è ricostruita nel libro di Franca Giansoldati, che è una vaticanista del Messaggero, La marcia senza ritorno, il genocidio armeno, pubblicato da Salerno, 128 pagine, 12 euro. Questa fu una pagina tragica non solo per la gravità dell'accaduto in sé, ma anche per il silenzio e l'indifferenza che per anni l'hanno coperto di oblio. Eppure fu il primo autentico genocidio nel Novecento al quale una sola voce seppe reagire con forza e decisione, e la voce fu quella del Papa di allora, Benedetto XV, che aveva anche allertato le potenze, come le si chiamava allora, su cosa stava per succedere. E la Giansoldati ricostruisce qui queste vicende a partire dal 24 aprile, da quel drammatico 24 aprile, esaminando il modo in cui l'eccidio fu considerato e trattato fino a diventare oggetto di un autentico negazionismo che si trascina da parte del governo turco fino ai giorni nostri. È un libro sempre attuale, molto documentato su questa drammatica pagina che stiamo ricordando, è quello di Marcello Flores, che è uno storico, docente dell'Università di Siena di diritti umani e di storia della cultura, che si intitola Il genocidio degli armeni, pubblicato dal Mulino, 348 pagine, 25 euro. Questo è un libro uscito per la prima volta 10 anni fa, che però in questa edizione viene ripubblicato molto aggiornato e accresciuto rispetto alla edizione originale. E il libro prese le mosse allora dalla condanna di un giornalista turco di etnia armena, Rab Dink, che era stato condannato a 6 mesi per gli articoli scritti su questo genocidio e che poi purtroppo fu ucciso, fu assassinato. I funerali di Dink diventarono un momento di richiamo su questo tema internazionale, perché fu una pagina memorabile, si radunarono oltre 200.000 persone a rendere omaggio al giornalista. E da allora il tema naturalmente è stato sempre più presente nel dibattito internazionale, e a un certo punto è sembrato addirittura che in realtà Ankara volesse effettivamente modificare e correggere le proprie posizioni, ma come ci spiega qui nella premessa la nuova edizione Flores, in realtà Erdogan ha soltanto usato, quando ne ha avuto l'occasione, delle parole più gentili senza intaccare quella che è la posizione negazionista. E la società turca da parte sua ha fatto dei passi avanti, è cambiata, Flores da atto, ricorda per esempio il film presentato l'anno scorso a Venezia, The Cut di Fatih Akin, che ha espresso proprio questa nuova empatia della società turca nei confronti delle vittime, una posizione che è stata rafforzata da molti contributi scientifici sui quali si basa appunto l'ampliamento e l'aggiornamento del libro di Flores, e quindi speriamo che l'ira che ha colpito il Papa, l'ira di Erdogan, non blocchi questo processo della società di riconoscimento verso quello che fu fatto 100 anni fa. In Italia la memoria della cultura armena è coltivata da una grande scrittrice, Antonia Slan, che ha scritto una terza parte della saga avviato col fortunato libro La masseria delle allodole. Adesso pubblica Il rumore delle perle di legno, pubblicato da Rizzoli, 182 pagine, 17 euro. E qui troviamo i ricordi della famiglia armena che si intrecciano con le vicende della famiglia Padova. E proprio nel periodo della fine della Seconda Guerra Mondiale, nella primavera del 1945, il nonno all'improvviso decide di tornare nella sua città, convinto che non ci saranno più bombardamenti, e invece dovrà subire tanti bombardamenti, tra i quali uno al quale assisterà proprio con la nipotina che fa da protagonista di questa storia. E poi, dopo la ripresa, troveremo gli anni della rinascita, della crescita, della maturazione del personaggio e soprattutto la sua riscoperta della cultura armena. Ieri invece era il 60° anniversario della morte di Albert Einstein, sul quale è uscito un libro di Philip Frank, che fu a sua volta un grande fisico, matematico e filosofo, successore designato dallo stesso Einstein all'Università di Praga. Il libro si intitola Einstein, 286 pagine, 19,50 euro, pubblicato da Castelvecchi, tradotto da Fernando Rocca, e questa è considerata una delle migliori biografie di Einstein, sia dal punto di vista letterario, sia per la conoscenza profonda che l'autore ebbe con il grande scienziato, e del quale qui ci vengono presentate le scoperte, il loro significato, il metodo scientifico e anche, tra l'altro, l'atteggiamento di Einstein verso la religione. L'autore chiarisce infatti che Einstein, con la sua chiara visione della struttura logica di una teoria scientifica, non ha mai voluto incoraggiare l'interpretazione religiosa della fisica. Per Einstein, aggiunge Frank, la religione è un sentimento mistico verso le leggi dell'universo e anche un sentimento di obbligo morale verso gli uomini. Ciononostante, il carattere strettamente logico-empirico del suo pensiero gli impedisce di ipotizzare un legame scientifico apparentemente scientifico tra questi due aspetti. Il 23 aprile è la giornata mondiale del libro e del diritto d'autore. In Italia sarà il giorno di Io leggo perché, un'importante iniziativa dell'AIE, l'Associazione Italiana Editori, per motivare alla lettura anche i più distratti, o come li chiama l'AIE, i lettori assopiti. E quindi il 23 240.000 libri saranno affidati a migliaia e migliaia di lettori, messaggeri, che affideranno a loro volta questi libri ad altre persone in tutta Italia. E il clou della giornata sarà la sera a Milano, il 23, a Piazza Duomo. In tutte le piazze saranno organizzate librerie all'aperto, ma soprattutto appunto a Milano ci sarà un momento di festa con la partecipazione di Samuele Bersani. E nella scuola viene lanciata l'iniziativa, sempre il 23, Crossa un libro, con gli studenti che parteciperanno a un gioco di citazioni letterarie. Il confettino. E allora, per indurre le prime letture, un grande classico, cioè I racconti di Mamma Oca di Charles Perrault, illustrato da Desiderio Guicciardini e pubblicato per il Battella Vapore, 154 pagine, 14 euro, con la traduzione di Simona Mambrini. E sono dei classici intramontabili, tra cui troviamo anche Cappuccetto Rosso, che confermano quanto scrive nell'introduzione Silvia Vegetti Finzi, ossia che le fiabe non si sono lasciate cancellare dai miraggi della tecnologia. E con questo ringrazio Guido Scotti e Silvi Boccaletti in redazione, Paolo Corleone in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica libro@radio24.it e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.